Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi e proposti da Stefano. Buonasera a tutti, eccoci ancora per un altro appuntamento, Stefano, Jazz e dintorni, un'altra puntata, un'altra passeggiata attraverso la buona musica, speriamo di tenervi compagnia e anche di mettervi stasera molta allegria perché il tema di questa sera è acid jazz, new jazz, lounge, insomma tutto quello che fa un po' muovere e che ricorda più o meno lontanamente il jazz, dipende un po'. Da quale tipo di musica ascolteremo. Il sottotitolo mi sembra significativo. Tracce di jazz per ballare, quando l'Europa prevale. Sembra quasi uno scioglilingua o un indovinello, ma secondo me poi sentendo i vari artisti che ho selezionato per voi oggi capirete perché questi due elementi, tracce di jazz e l'Europa che prevale, hanno una loro ragione d'essere quando parliamo di questi tre generi musicali, tre che poi potrebbero essere anche molti di più perché le definizioni sono notevoli per questa area un pochettino facile, se vogliamo, più ascoltabile, più immediatamente percepibile, che arriva immediatamente alle gambe per farci venire voglia spesso di ballare o ci dà altre sensazioni quando noi parliamo di acid jazz, new jazz e lounge. Vi dirò un po' poi più tardi che cosa si intende per questi tre generi, anche se non sempre è facile distinguerli, ma vorrei subito introdurvi al primo ascolto. Il primo ascolto è un ascolto di eccezione, direi, anche come i successivi, non vi spaventate, anche il resto non sarà da meno, ma iniziamo subito con un pezzo forte, i Gotham Project, un gruppo sostanzialmente francese, almeno di base francese, anche se il nome ci fa pensare a cose più esotiche, e il pezzo scelto si intitola Queremos Paz, il disco è La Revancia del Tango, non vi dico altro, è un disco del 2001, riconoscerete, e poi magari vi darò qualche altra informazione su questo straordinario gruppo. Gotham Project. Forgotten Projects, Queremos Paz dalla Revancia del Tango 2001. Certo, i puristi del tango avranno qualche problema ad accettare questo tipo di variazioni, però senz'altro questo gruppo ha aperto una strada e ha permesso di riscoprire anche a molti giovani un genere classico, importante, rivisto, rifiltrato, diciamo, attraverso delle sensibilità più contemporanee in termini di ritmica, in termini di samples, di campionamenti, no? Che ritornano come questa voce che si sente tratta da un discorso, Queremos Paz. E senz'altro i Gotham Project sono anche un gruppo molto bello da vedere, perché nei loro concerti usano delle soluzioni estremamente interessanti e anche originali. Gotham, tanto per dirvi, è un po' un gioco di parole con tango, è un altro riferimento, se volete, particolare per capire un po' così il senso di originalità di questo gruppo e anche le loro un po' ricerche, se vogliamo. Adesso passiamo a un altro gruppo, sempre in questo contesto che abbiamo oggi di acid jazz, new jazz, lounge, ed è un gruppo inglese in questo caso, si chiamano i Cinematic Orchestra. Anche loro sono molto particolari come sonorità, c'è molta elettronica, il jazz viene diluito in una serie di suoni e di arrangiamenti particolari. È un gruppo che nasce alla fine degli anni 90 e anche qui riconoscerete tanti campionamenti, molta improvvisazione. Va detto che Cinematic Orchestra ha questa particolarità che usa le improvvisazioni anche poi per le registrazioni, quindi creando un misto di studio e di così soluzioni trovate dal vivo che è sicuramente molto interessante. Il pezzo scelto è un pezzo dal loro primo disco, un disco del 1999, wow, già 10 anni fa, non si direbbe per la particolarità dei suoni e la modernità dei suoni. E il titolo di questo pezzo si intitola Channel One Suite Cinematic Orchestra. atmosfere magiche, quelle create dalla Cinematic Orchestra con questo Channel One Suite, tratto dal loro primo disco del 1999. Certamente, se volessimo classificarla, forse si avvicinerebbe più a quello che viene definito New Jazz, che è un modo, un termine per indicare così della musica che mischia il jazz con altri generi, con altri stili, in questo caso elettronica, anche un po' di soul qua e là, e anche nelle ritmiche particolari come quelle che vengono qui ripetute. Il gruppo era un gruppo, come vi dicevo, inglese, e senz'altro questa musica molto descrittiva che evoca immagini, fa pensare a qualcosa di fantastico, stimola l'immaginazione, ed è forse per questo che è stata spesso utilizzata anche in colonne sonore o in altri spot musicali. Lo stesso possiamo dire del prossimo gruppo, del prossimo artista o artisti, perché si tratta di due artisti in particolare. Il gruppo si chiama Slow Train e i due artisti che lo compongono sono Lady Z o Lady Z e Martin Varano. Sono due artisti sostanzialmente della scena inglese che si sono incontrati nel 2002 e che hanno cominciato a incidere insieme, tra cui vari pezzi molto famosi, fra cui quello che vi farò ascoltare oggi, che si intitola Naturally, tratto da un disco del 2003, Illegal Cargo. Anche in questo caso è un pezzo, ma come altri loro, che è stato usato in vari spot, in varie situazioni. È un pezzo che prende immediatamente l'ascoltatore e anche in questo caso lo trasporta, facendogli venire voglia di cantare e sicuramente anche di ballare. Naturally, Slow Train. They say that love feeds on love. Naturally, like I knew you were the one shining brighter than the sun. Naturally, like I knew you were the one. Naturally. Naturally. Just comes naturally. like I knew you were the one. Naturally, Slow Train, siete sempre all'ascolto di Radio Alma, 101.9 FM, Bruxelles, state ascoltando Jazz e dintorni, ai microfoni Stefano, e la proposta di oggi riguarda acid jazz, new jazz, lounge, quindi atmosfere particolari, pronti ad alternare voglia di ballare con voglia di sedersi su un divano, magari bevendo qualcosa di piacevole e così chiacchierando. Speriamo di tenervi compagnia ancora per un po', sono le 8:19, quindi abbiamo ancora insieme qualche altro pezzo interessante, come il prossimo per esempio, che è di un artista famoso ormai, che ha avuto successo da molto tempo, si chiama Paul Hardcastle. Paul Hardcastle in realtà ha avuto il suo primo successo a partire da metà degli anni 80, è nato nel 1957, quindi nell'85 ha il suo primo grande hit, 28 anni, boom, una grande idea, questo 19, in cui mischiava musica mettendo anche dei campioni di un discorso sul Vietnam. Era una musica e una canzone di protesta, ma non come si faceva sempre da cantautore, ma con una ritmica molto gradevole, e lo stesso con riprendendo degli spezzoni di un'intervista importante e dimostrando come la guerra in Vietnam fosse stata così una guerra violenta, terribile, sia da una parte che dall'altra. Grande successo, e da allora pure al caso non ha fatto altro che avere altri successi e continuare in una magnifica carriera. Il pezzo che ho scelto per voi è un pezzo anche questo molto bello, che si intitola You May Be Gone, Paul Hardcastle. E buon ascolto. that castle, you may be gone, but you'll never be forgotten. Te ne sei andata, ma non sarai mai dimenticata. Ed era questo che intendevo quando vi dicevo che avremmo alternato momenti di ballo, di movimento, a momenti invece più riflessivi, più pronti a essere così in una conversazione piacevole con questo sottofondo. Ma adesso di nuovo ripassiamo in qualcosa che ci metterà voglia di muoverci. Passiamo anche a qualcosa di italiano, perché finora abbiamo sentito appunto americani, come il caso di Hardcastle, inglesi, francesi. C'è anche la scena italiana, è sicuramente estremamente interessante per quanto riguarda le produzioni che possono essere collegate all'acid jazz, al new jazz e al lounge, come vi dicevo prima. In particolare, in questo caso parliamo di una coppia di musicisti italiani, si chiamano Marco Bianchi e Paolo Fedreghini, che hanno inciso molti pezzi insieme, e soprattutto sono tra coloro che sono riusciti ad entrare in queste compilation, che poi sono il mezzo più frequente per far conoscere questo tipo di musica lounge o acid jazz. È molto più frequente che vengano appunto venduti dischi compilation di vari artisti piuttosto che singoli di CD di uno di questi artisti. E le compilation sono anche molto famose, la più famosa in termini lounge è sicuramente Buddha Bar, ormai è arrivata, non so, la 13ª edizione, non saprei dirvi a quale numero, ma ce ne sono altre come Hotel Cost o come quella da cui abbiamo tratto questo pezzo di Bianchi Fedreghini, Saint Germain des Prés Café. Per esempio questa è tratta dal 7° volume di Saint Germain des Prés Café, il sottotitolo di questo CD è The Finest New Jazz Compilation, tanto per tenervi in questo genere e farvi capire. Il pezzo che ho scelto per voi si intitola Oriental Smile, e vi ricordo due artisti italiani, Marco Bianchi, Paolo Fedreghini. Again, one of my funny days. smile. Yeah, in my heart alone, just now that you are gone. And yeah, I'm lost inside of me. Yes, the only way of life. Marco Bianchi, Paolo Fedreghini, Oriental Smile, essenzialmente un prodotto internazionale, realizzato da due musicisti italianissimi, ed è anche italiana poi la casa discografica che produce i loro dischi, e in cui si riesce a dimostrare che si può chiaramente prendere la musica che viene da oltreoceano e temperarla un po' con delle sensibilità europee e tirar fuori delle musiche che poi appunto possono tranquillamente figurare in raccolte che poi hanno un mercato mondiale. Quindi segnatevi, Marco Bianchi, Paolo Fedreghini sicuramente continueranno a produrre altre cose interessantissime in futuro. E adesso passiamo a un altro gruppo da tenere d'occhio, senz'altro. Si tratta di un gruppo francese, si chiamano Metropolitan Jazz Affair, un gruppo in cui i due principali animatori, creatori sono Bruno Hovart e Mr. Day, e anche loro riescono a mischiare con enorme interesse con degli ottimi risultati jazz e tante altre cose, funk, in alcuni casi anche hip hop, insomma sempre in questa linea che caratterizza la puntata di oggi, che vi ricordo si intitola Acid Jazz, New Jazz and Lounge. Il pezzo che ho scelto per voi è un pezzo molto famoso, You Know What Life Is, non vi posso dire come è scritto, ma è scritto tutto attaccato e naturalmente in maniera grammaticalmente scorretta, ma che dà lo stesso suono, quindi You Know What Life Is, è tratto da un loro disco del 2003 che si intitolava con le loro iniziali, e cioè MGA, Metropolitan Jazz Affair. Don't Know what this life is. Tu lo sai che cos'è questa vita. E noi sappiamo che cos'è questa musica. Spero che vi abbia messo voglia di muovervi, di essere in movimento, anche se siamo tardi la sera e qualcuno è stanco, ma ci vuole anche qualcosa per tirarci su ogni tanto. E penso che questo tipo di musica possa sicuramente essere d'aiuto. Era in Metropolitan Jazz Affair, You Know What This Life Is, tratto da un disco del 2003 intitolato MGA, MGJA, che sono le iniziali poi di questo gruppo francese. E adesso forse è giunto il momento anche di così rendere omaggio anche al Belgio. Il Belgio ha dei grandi musicisti, senz'altro, e anche in questo genere ha avuto un musicista sicuramente di spicco, che poi era un musicista con una formazione completa, perché aveva suonato nel jazz, ma anche nel rock, è stato un producer. Bene, parlo purtroppo al passato perché è prematuramente scomparso. Parlo di Marc Moulin, anche lui nato e vissuto qui a Bruxelles, ma con una importanza e una fama mondiale. Come vi dicevo, non è stato solo un musicista, è stato anche un producer della radio molto importante, uno scrittore, insomma un artista direi completo. Tanto per capire così il suo apprezzamento mondiale, vi posso dire che a partire dal 1999 Marc Moulin ha inciso con la Blue Note Records, quindi questo vi dà un po' un'idea. E questo disco che io ho scelto è un disco del 2001, è proprio stato inciso con la Blue Note, il disco si intitola Top Secret, e il pezzo che vi propongo è What, con un punto interrogativo, What? Thank you. Marc Moulin col suo What, un pezzo del 2001. Marc Moulin che purtroppo è morto l'anno scorso a 66 anni e sicuramente avrebbe ancora potuto dare tantissimo al mondo del jazz, tantissimo al mondo del jazz bag in particolare, essendo uno dei rappresentanti sicuramente conosciuti nel mondo. Comunque ci lascia questi bellissimi e anche originalissimi brani che sono ancora facilmente reperibili, come dicevo, con la casa discografica Blue Note. E adesso facciamo un altro salto, rimaniamo in Europa un'altra volta, e per proporvi un altro artista italiano. Ebbene sì, come vi dicevo, il quadro, il panorama italiano di questo genere musicale è un panorama ricco, interessante e anche ormai conosciuto nell'ambiente. Parliamo in questo caso di Nicola Conte. Nicola Conte è un musicista che ha avuto un'educazione classica, ma che poi ha trovato la sua dimensione in così, delle soluzioni che possono essere classificate appunto all'interno dell'acid jazz, di questi mix che facciamo fra, che vengono fatti fra jazz, funk, hip hop. Nel caso suo c'è una particolarità: il Nicola Conte è un po' come, diciamo, etichetta, come marchio musicale, è quello che più di altri è riuscito a creare, a mischiare jazz con bossa nova e a creare queste sonorità che adesso poi ascolterete nell'esempio, nel brano che ho scelto per voi. Ma forse sentirete anche sottofondo di queste così note anche qualche cosa che ricorda un po' alcuni film italiani degli anni 60, anni 70. D'altra parte, buon sangue non mente, quindi è inevitabile che i musicisti di casa nostra, ed è fortunatamente così, abbiano anche questo tipo di sonorità nel loro retroterra, nel loro background, e che riesce ad essere, a permeare poi la musica che loro fanno. È una musica anche questa molto gradevole, molto facile da assimilare, ma non per questo naturalmente il termine facile viene usato per diminuirne l'importanza. È una musica che viene usata spesso in spot e magari vi ritroverete con la sensazione di dire: ma io questo già l'ho sentito da qualche parte. Va bene, vuol dire che è una musica così che ci è entrata nell'orecchio. Il pezzo che ho scelto per voi è un pezzo tratto dal suo primo disco, Jet Sounds, anche questo inciso per questa casa italiana, discografica italiana, si chiama Schema, e il pezzo è quello che dà il titolo al disco, e quindi Jet Sounds. Thank you. atmosfere sudamericane, latinoamericane. Avete sentito che cosa intendevo quando dicevo jazz e bossa nova? Veramente un tocco particolare questo di Nicola Conte in questo suo Jazz Sounds. Tanta allegria, tanta voglia di ballare e soprattutto ci fa pensare un po' all'estate. Certo, non siamo proprio d'estate, ma insomma, se non altro cerchiamo di pensare ad altro rispetto a questo tempo che ci circonda. E adesso ci avviamo all'ultimo pezzo, prima di lasciare lo spazio ai nostri amici di Brussellando, che già vedo arrivare e che sicuramente vi terranno compagnia, ottima compagnia, dopo spero avervi un po' smosso con la puntata di oggi dedicata a Acid Jazz, New Jazz e Lounge. In questa puntata non poteva mancare naturalmente Ludovic Navarre. Ludovic Navarre, che è anche più famoso come Saint-Germain, un musicista francese che nel 95 ha avuto un grandissimo successo con questo disco Boulevard, da cui ho tratto appunto il pezzo che vi farò ascoltare, che si chiama What's New, un disco che ha venduto 350.000 copie in tutto il mondo, quindi capite bene che lo ha reso famoso, e anche il suo successivo disco Tourist è stato sicuramente coronato dallo stesso successo. Adesso vi lascio con What's New Saint-Germain, also known as H. Ludovic Navarre. Remember back what my mother says. It's the word that my mother says. Keep a whole bone in it. I can remember well. Remember back what my mother said. Remember back what my mother said. Keep a whole bone in it. Remember back what my mother said. It's a word that my mother said. Keep a whole bone in it. Remember back what my mother said. What my mother said. Keep a whole bone. Remember back what my mother said. Remember back what my mother said. The word that my mother said. Keep a whole bone. Remember back what my mother said. Ludovic Navarre, non è vero, non è il pezzo che vi avevo detto, è un altro pezzo, lo stesso bellissimo, che si intitola My Mama Said. L'ho scelto proprio perché vi dà l'idea di come vengono usati i campioni, in questo caso di una canzone blues, per poi essere calata in questo mondo di elettronica così movimentato e così anche ricco. Vi saluto, ormai siamo arrivati alla fine di questa puntata, speriamo vi sia piaciuta, speriamo di avervi ancora con noi martedì prossimo, un'altra sorpresa, altra buona musica con Stefano e Jazz e dintorni. A presto, ciao a tutti. Avete ascoltato Jazz e dintorni, viaggi nella musica, percorsi e proposti da Stefano. Exactly what is it? Right now I wanna make it clear, impromptu's not, it'll be been around for years.